perché questa notte mi invidi a sognar, mentre soffro non so più scordar il mio perduto amor. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri quaggiù e fai più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento e in quest'incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu. Sera portasti al mio cuor in un sogno di nuvole d'or che mai non scorderò. Corri laggiù, la sua sponda ritorna a baciar, se un istante la fai ritornar la vita mia darò. Ma l'onda corre, non sa questa voce che implora sulla scogliera lucente nera mormorerà.